O a proposito di Giamblico e della sua vita pitagorica o ad altri propositi, abbiamo già avuto modo di accennare a quella grave patologia detta favismo. Si tratta di una carenza enzimatica trasmessa ereditariamente, solitamente più grave nei maschi che nelle femmine. Alla base c'è un gene che dà inizio, diciamo, alle proprie malefatte allorquando il suo portatore ingerisce fave, piselli, una certa tipologia di cosiddette droghe vegetali o anche alcune tipologie di farmaci che dunque agiscono da fattori scatenanti, no? Dopo un po', fra le 12 e le 48 ore, febbre, ittero della cute, delle mucose, urine aranciate, debolezza, polso rapido e debole, problemi respiratori. E nei casi più gravi, la distruzione dei globuli rossi mette a rischio la vita. La leggenda dice che Pitagora, inseguito da qualcuno che ce l'aveva su con lui e con la sua troupe, piuttosto che attraversare un campo di fave si è fatto prendere, ed è ancora un caso in cui si rimane perplessi di fronte alle decisioni dei grandi uomini. Il certo e il subitaneo sembravano peggio dell'incerto e del successivo, ma tant'è. Allora, è uno. Da quel connubio fra scienza e filosofia che caratterizza l'antico pensiero greco e dagli oscuri saperi alchemici che caratterizzano gli antichi e i moderni pensieri di ogni parte del mondo, scaturisce quel noto concetto dell'irresistibile attrazione fra corpi e del suo contrario, l'irresistibile repulsione. Vicende culturali alla mano, si constata dunque che il passaggio dell'applicazione del concetto da corpi a corpi, da corpi come il magnete, la limatura di ferro, che da questi verrebbe attratta, a corpi come quelli di tutti noi, armi e bagagli mentali appresso. È così che fra la moneta linguistica ha preso a circolare, senza sfuggire a quel processo di inflazione in grazia del quale prima o poi un pezzo di grosso taglio diventa uno spicciolo, ha preso circolare la categorizzazione del simpatico e dell'antipatico. Oggi in auge, ricorrente nel discorso quotidiano, non è certo al caso che deve il suo successo. Sembra fatta apposta per diventare la metafora regina nell'apparato categoriale di una scienza popolare dei rapporti umani. È comoda proprio in merito alle sue origini occulte, la misteriosa forza dell'attrazione e della repulsione, allora per l'appunto alleviano il parlante dal fornire un criterio esplicito. Consente il giudizio, positivo e negativo che sia, senza doverlo argomentare. È una sorta di liberatoria per chi, tirato il sasso, può essere lesto nel nascondere la mano. Che nel categorizzare chi che sia come simpatico o antipatico, i rischi dell'eventuale giudizio siano attutiti dal residuo esoterico che la categorizzazione ancora contiene, è evidente allorquando di uno scambio linguistico poi se ne possa analizzare il contesto. È opportuno e pertinente allora l'esempio di un Mussolini Benito, che quando il 29 luglio del 1939 deve tener buoni i camerati rurali, dice loro che possono contare sulla sua simpatia. Certo, non potendo promettere loro altro che sacrifici e prossime trincee, è abbastanza ovvio che gli convenga, dopo averli valorizzati in positivo, garantendogli un rapporto privilegiato con la propria persona di duce. Ed è ancora opportuno e pertinente allora l'esempio di un Berlusconi Silvio. che il 27 ottobre del 1995, allorché è chiamato a dare un giudizio politico di Cossutta, dice che gli è simpatico. Gli è simpatico perché assomiglierebbe a suo zio e perché l'aspetto familiare che conseguentemente gli aleggerebbe intorno lo mette di buon umore. Con una sola categoria, si badi, in positivo, con una sola categoria, insomma, non liquida soltanto l'avversario politico, ma l'intera relazione che con questo avversario potrebbe intrattenere. Con ciò non dico che chiusa la dicotomia simpatico-antipatico nel proprio linguaggio quotidiano sia sempre comunque un perfetto fascista, ma dico che della cultura fascista e del suo retroterra esoterico e pragmatista ha certamente incorporato qualcosa. E due. Mi scrive un ascoltatore imputandomi un errore nel quale sarei incappato domenica scorsa. Si parlava di ridondanze e di informazioni paradossali elargite sulle etichette di due tavolette di cioccolato. E l'ascoltatore mi fa notare che lei lamentava che sulla tavoletta di cioccolato altro mercato da lei acquistata viene riportata l'informazione che le fave provengono da una determinata piantagione in una particolare nazione, fave che secondo lei non vengono enumerate tra gli ingredienti. Mi sarei sbagliato perché quelle fave altro non sarebbero che le fave della pianta di cacao dalle quali provengono la pasta e il burro di cacao che costituiscono, per così dire, l'ossatura della tavoletta e che, aggiungo io, come tali avevo elencato cacao e pasta di cacao fra gli ingredienti regolarmente dichiarati. Ora, se l'ascoltatore avesse avuto la pazienza di ascoltare attentamente quanto effettivamente detto da me, nonché di sfogliare un dizionario della lingua italiana, scoprirebbe che non mi sono sbagliato affatto. Sul dizionario leggerebbe che per fava si intende una pianta erbacea con fiori bianchi macchiati di nero e per estensione il suo frutto, baccelli contenenti semi commestibili verdi. Se volesse utilizzare invece un dizionario specialistico, ne ricaverebbe che la fava è il nome comune della vicia faba e del suo seme, ma il senso della cosa non cambierebbe. Da quanto effettivamente detto, verificabile sul sito internet di Radio Popolare, ricaverebbe che io avevo parlato di due possibilità: che o nell'elenco degli ingredienti le fave mancavano o che si trattava di un errore di traduzione. Errore di traduzione che infatti è e rimane. Fin qui sono cose che possono accadere. Uno è distratto, vabbè, tanto è vero che l'ascoltatore mi consiglia di provare qualcosa di meglio di un Lind al 45%, mentre io avevo parlato del Lind all'85%, e per il partito dei cioccolatisti la differenza non è poca. Uno è distratto, vabbè, e può capire una cosa per l'altra o perdersi qualcosa. Capita con le persone. Figuriamoci se non può capitare con la radio. Fin qui dunque non c'è neppure il motivo di tornarci sopra. Se non che se non che l'ascoltatore in questione, prima di credere di avermi colto in errore, partiva da una premessa. Ogni volta che sento un suo intervento nella trasmissione La Caccia, monta in me l'antipatia per lei. Ecco dunque ancora una volta dimostrato che la teoria precede l'osservazione. o meglio che l'atteggiamento che si assume nei confronti di chi che sia può ingenerare le categorie con le quali poi lo si descriverà, ritenendo di essere obiettivi, scientifici, realisti, di stare in poche parole dalla parte della ragione. E tre,